così così sto studiando. Beh, io sono facevo il bene. Io se facciamo 6 milioni non faccio il gioco maggiore, da adesso sono bloccato con la febbre. Ma anche a te ha colpito, mamma mia, non va bene. Ma pomeriggio, lunedì, poi piano piano, adesso mi sono misurato e c'è un po' di febbre. Ma qualcuno che stava a casa mi sembrava Lello, come si chiama, Peter Pan. Roberto! Ascolta, Tone, ciao Tone, ben sentito. Scappa, non ti sento molto, molto male, come? Sono comportati, da dove sei, Tone? Tone, dove sei? Sto facendo dei calcoli, capito? Degli esercizi sto facendo. Per

per le barche, dico, per i radiotelegrafisti c'erano il primo grado, il secondo grado, e poi il terzo grado pure. E vabbè, ma è stato un impiccato, addirittura la telegrafia l'hanno tolta. Ma o meglio, una volta che prendo la patente mi alleno in telegrafia, tanto già ne sapevo un po'. E se la facciamo un po' io e Salvatore, così possiamo trasmettere anche in TV Zucchio, per non fare sempre a infonia, almeno qualche collegamento in TV Zucchio lo fai. Ma passare molto di più sicuramente, non è così? Adesso sta perseguitando uno dell'Antartide, sta perseguitando, tutti lo stanno perseguitando, una pressione hanno fatto in Antartide, no? E quindi sono tutti alle prese se riescono a beccarlo. Io questo fatto qua, siccome io sono un libro di radiopatrulli eccetera eccetera, e c'era la questione di questo posto dell'Antartide, ah, mi dico già non lo so, lo sto tentando io per adesso. Claudio, poi c'è questo caffè che hanno impianti, allora dico di fare, cioè, impianti di antenne e luci non è che ce ne sono tantissimi. Sì, posso salire principalmente per quello di Marco. Dico, parlo di Marco, sì, quello col professore, cos'è, che dove venne a Napoli, all'inizio, che è la Bruti, quello delle Caprere, poi ce n'è uno grosso a Ripunti, ho visto, di impianti, parlo di antenne, non di apparati, di antenne pare. Sì, naturalmente sì, però dico, ce ne sono però altri radioamatori, per dire tipo Salvatore che non ha grosse antenne. Sì, vabbè, dipende anche se te le fanno mettere nel palazzo, cioè se le dovrebbero far mettere, ma bisogna vedere, lui non è in casa sua, anche in casa del padre, se fosse stato in casa sua sarebbe stata un'altra cosa, non direi a problemi. Sì, lo so benissimo, lui è andato, si è andato a Uzi, l'ho visto, al quadrato si è messo l'antenna e si voleva a trasmettere. Un'altra andata del stupido per fare i 4 metri, la piazzata lì per fare i collegamenti, sta buttando una batteria di macchina, non so cosa va via, voi. Sì, spedizioni quelle sono. Beh, certo, vuol dire una stazione più per il resto. La Saguba. Mica bene, perché anche con le lingue e i collegamenti la si fa rispondere. USB mi pare, allora i collegamenti considerando che siamo in una stagione invernale, che ne per i fucci, non pensavo minimamente di riuscire ad arrivare così lontano. Sì, quando non c'è propagazione è stato che ne accorgi. Poi Sud Italia, Centro Italia, Nord Italia per collegare, quando c'è propagazione arrivano, perché mi sono disparato. Ma questo del Portogallo era arrivato a Santiago Novo, era un segnalone allucinante. Adesso stiamo ascoltando poco fa sul canale, sembra canale 7, in SSB arrivava lo stesso un segnale di Santiago 7, bello pulito, limpido, limpido. Ma in quello che lo potevi fare? Allora erano tra di loro, non riuscivo a trovare il break, il momento di parlare, ho provato a parlare, però non riuscivo a trovare il buco, alla fine poi si abbassava il segnale e alla fine ci ho rinunciato. Così non è come la M normale allora. No, intanto l'ho fatto vedere io. Tu li centri bene, poi boom boom boom boom. Bisogna essere collaborato, c'è bene l'SSB. Oh, Claudio ha detto che funziona bene, è molto centrato, ha detto, perché ha fatto la prova e il Modigiani risultava fuori banda di non so quanto. Quello lì l'ha misurato con l'apparecchio e ha detto che va bene. Io nel fatto ce l'avevo centrati perfettamente, il coso non svitava neanche di frequenza, ho fatto la prova su di loro e erano centrati perfettamente, ritenevo fermi. Sto utilizzando il portatile, sono nella stanza dei bambini, sono sdraiato, tra l'altro non mi sento tanto bene. Io non rispondo a questo, facciamo la prova e vediamo un po' ti sento io e dove tu senti a me. Allora, l'altro giorno con Claudio abbiamo comunicato, mi sentiva perfettamente. Io con la loro esperienza ho tardato un po' a centrarlo, però una volta che riesci a capire, perché io abituato a girare velocemente, invece bisogna toccarlo poco a poco il carifer, se no lo perdi. Io non lo sapevo, io ho abituato tipo con le referie, tu che invece basta toccarlo un millesimo e perdi tutto, modifichi tutto. Ah, infatti, la sintonia è quella di quando il fine corso deve toccare, capito? Quello di fuori, gli incendi entri a parlare. E l'altro al centro banda lo tiene, tutti e due al centro banda vogliono là. E poi con quello di fuori gli incendi. Sto iniziando, io non ho nessuna esperienza, piano piano me la sto facendo. Così questi riusci che erano in AM, insomma in SSB, dovevo abbassare l'RSA Game e migliorava parecchio la cosa, la modulazione, la radio migliorava. Se alzavo troppo c'era disturbo. Mentre in AM è il contrario invece. Ho visto piano piano con l'apparecchio e quanto l'ho pagato ci ho detto di fuci, funziona alla grande. L'unica cosa che mi manca, che avrei preferito ci fosse un sequenzimetro, per il resto va tutto bene. Vari galaxy senti il beat, l'orologio del beat che mi serve piaciuto, ma ci posso premere per questo. Come questo? Vabbè, ti stai parlando di un giocattolo più grande. Beh, è sempre un apparecchio di qualità, di alto livello. Ah, meglio del Galaxy, sicuramente. Galaxy, certo che mi piaceva, perché diciamo, un apparecchio secondo me completo. Tu, Claudio ha ragione, magari è uno scatolone vuoto, però c'ha il frequenzimetro, c'ha gli strumenti, c'ha lo gelmissu, c'ha l'eco, c'ha tutto incorporato. Ma non è guidato in apparecchi. Quando ti puoi prendere un apparecchio, io mi dice a Claudio, ho buscato un apparecchio come si deve. Tanto tu hai la licenza di SWL e puoi ascoltare, e così ascolti le altre cose. Magari quando ti metti a ascoltare le altre cose non c'entri più che ti feste, perché ti fa schifo. Magari, non lo so, infatti ho visto quello di Salvatore quanto gliel'ha fatto prendere, ma è spettacolare, se trovassi un'occasione del genere mi vendo quello lì subito, questo face o faccia che si chiama, e mi metto uno di quelli. E poi ce ne sono tutti e due, uno per entrare qua e l'altro per ascoltare. Ecco, quindi c'è un'antenna per ascoltare, che la faccio io, non c'è problema. Cerca di navigare qua. Fanno meglio le antenne, magari non ho cognizione, anche i calcoli per la 27 sono completamente diversi, però la logica è la stessa. Io l'antenna FM la prima antenna che avevamo, a parte la Gran Play che l'avevamo comprata, la prima, il primo dipolo ripiegato, l'avevo costruito io, c'erano tutti i progetti, adesso volevo cercare, perché sicuramente la logica è la stessa, perché cambieranno le misure, perché sarà molto più grande quella 27, però l'avevo costruito e funzionava, un dipolo ripiegato però, non ha perso. Sì, ma per il servo sono diversi. Procedimento, tu sono filari, capito? Perché tu vieni qua, ti faccio vedere quello che ho costruito, non è un servizio di foro. Quello che ho fatto io, tu devi vedere, ti muovi in mano in capo. Qualche giorno vieni con Roberto e ti rendi, e con il dottore ti rendi conto della situazione. E poi ti faccio vedere come esce. Capito? Perché il dottore lo vedi come collega un per la tela. Un'antenna di ricezione superiore a questa che ho, questa multibanda, perché questa va discretamente bene perché ti fa tutta la banda, però magari nelle bande specifiche non è niente, non è un granché. Sì, dipende da che bande vuoi ascoltare tu. Però naturalmente, no, ma magari adesso che sto prendendo piano piano piede, diciamo, mi specifico sulla banda, mi fai, dici qualcosa per farla su quella banda lì l'antenna. Ecco, però se c'è Mario, Mario ci sei? O Luca o chi c'è? Come sapete ci sono una partita qui. Io adesso la collego, ma allora, se vuoi continuare a studiare studiami, tanto non ci sono problemi, la pari non si vuole disturbare. Mi ricorderà, ogni tanto chiama lì, mentre io mi finisco con queste cose qui, poi rientro liberamente. Ma capisco, mi accendo la televisione e mi guardo anch'io, poi vediamo un pochettino. Ora, continua a studiare e buon proseguimento. Ciao, Maria, dopo.